Le strade della comunicazione. Sono molti i campi in cui è sempre forte la richiesta di interpreti e traduttori esperti, non solo le aziende private, ma anche gli enti, le organizzazioni internazionali, fino alle case editrici. Ogni contesto in cui ci sia richiesta di una mediazione linguistica ha bisogno di esperti di alto livello tecnico e culturale. Ecco il professionista di cui parliamo oggi. Interprete di conferenza. È un conoscitore di una lingua straniera che, a differenza di un traduttore, interpreta oralmente da una lingua di partenza a una di arrivo. Esperto non solo della grammatica e del vocabolario, ma anche della gestualità, della mimica, della retorica e delle forme parlate della lingua chiamato a tradurre. Percorso accademico. Corso di laurea magistrale in traduzione specialistica e interpretariato di conferenza dell'Università Yulm, www.yulm.it.